Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Angiola Bottero Bodrero, Il nido dell'aquila. Appollaiata lassù, su cime tempestose, il nido dell'aquila accolgono il volo spazi infiniti, fende l'azzurro, libera. Ti amo, montagna, possente, generosa, ripari le tue creature, sui tuoi pendii contemplo la creazione, il ricordo vola all'alpino, mio padre, a mulattiere battute dal vento, da scarponi chiodati, dall'ansito dei muli affardellati, vibrano ancora nell'aria i loro canti, i loro gemiti, spirali di ricordi, oggi, domani, sempre. Ti amo, montagna, racchiudi nel seno i doni di Dio, in noi il silenzio. La pace. Ogni diritto riservato all'autore.